Devo arrivare qui in momento. No, no, sei controvaro. Scusa, che ora sono? Sono 11 e mezzo. A mezzogiorno, avanti a piazza, culo! Ma chi è stalora? Ti ho detto sono le 11:30. Ma detto a mezzogiorno vattela a piangere il culo. E allora che se voli, manca ancora mezz'ora. Manca ancora mezz'ora. Giovedì a mezzodì, Radio XXX in combutta con Tusi. Bella man, giornata magra, aspetta almeno un'oretta come Viagra. Sono quello che fa, bella raga, ma sorrido la metà di Body e Zaga. Questo qui è lo show di Truman, che ci sto fa qui, non si fuma. Viene che yay, con la voce diretta e in diretta promuove chi sei. Si è creato uno spazio apposta pure per gli sfigati che non hanno mai risposta. Quindi ormai che ti costa? Mi sputano tutti i giorni con il link in posta. E questa è la sigla, sincronizza gli orologi, Max arriva! Stai attento Luigino, hai perso la paletta. Che cosa è stato, mammina? Niente, è stato il cannone che annuncia mezzogiorno, tesoro. Ma signora, allora deve regolare il culo perché gli va il quarto d'ora indietro.